Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Io saluto e ringrazio Andrea Zorzi, che è qui vicino a me, che in questo periodo è il mio più gradito compagno di viaggio. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato e ben ritrovati tutti i radioascoltatori. Oggi parleremo del profondo rosso, del bilancio delle squadre azzurre. Questo è il tema che svilupperemo con Andrea Zorzi, con molti ospiti e con voi. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma prima di questo rimaniamo sulla cronaca che ci porta a Monza da Dario Ricci, nostro inviato, per capire come è andata la mattina, cosa ci dobbiamo attendere nel pomeriggio sulla pista e che cosa è successo e sta succedendo soprattutto dietro le quinte, dove il personaggio più ricercato immagino sia quello che non c'è, e cioè nel signor Piquet. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Monza. Come sentite inevitabilmente dal rumore dei motori in sottofondo, è iniziata alle 14, puntuale come sempre, la seconda sessione di prove libere, vetture in pista fino alle 15.30, ma oggi insomma è soprattutto giornata di studio, di preparazione e di assetti in pista. C'era grande curiosità chiaramente per l'esordio di Giancarlo Fisichella sulla Ferrari, ebbene direi promosso a questo primo esame della mattinata nella prima sessione di prove libere il 36enne romano, ottavo tempo 1:24.732, a circa 8 centesimi da Lewis Hamilton, che è stato il miglior tempo in 1:23.936, davanti all'altra McLaren di Kovalainen e alla sempre più sorprendente Force India, stavolta quella di Sutil. Ricordiamo la Fisichella, proprio prima di passare in Ferrari nell'ultimo Gran Premio in Belgio, ha conquistato sulla Force India il secondo posto, decimo l'altro ferrarista Raikkonen, e sedicesimo quel Vitantonio Liuzzi che proprio alla Force India ha preso il posto di Fisichella. Gli altri protagonisti del mondiale hanno un po' giocato a nascondersi come d'abitudine, certo, nel venerdì. Il venerdì, quindi insomma settimo tempo per Button, e in questo momento sta secondo tempo per Liuzzi, tra l'altro una bella soddisfazione per Vitantonio Liuzzi con la Force India, tra l'altro protagonista dall'inizio della sessione, prima terzo tempo, adesso addirittura secondo, prima superato da Kubica, ora da Kovalainen, però insomma questo è un mondiale che è bello perché è vario, caro Dario. Per strada abbiamo trovato all'inizio protagonisti inattesi come Brown, poi un po' più attesi ma non a questo livello come la Red Bull, adesso stiamo trovando per strada la più inattesa di tutte, cioè la Force India, mentre le grandi vanno a corrente alternata. Quanto al resto, cioè quanto al caso nel signor Piquet, esploso in tutto il suo fragore ieri sera, Dario Ricci ha sentito Bernie Ecclestone oggi. No, we've been talking about the football tomorrow, QPR, our team is playing tomorrow, a big match in London. Ma cosa fa Dario? Parla di calcio? QPR, big match in London domani, abbiamo parlato di football, ma chi? Bernie Ecclestone è il grande, insomma, Melina direi che è la sua tattica preferita, perché in situazioni del genere serve soprattutto conquistare, guadagnare tempo, no? Per ragionare a mente fredda. Questa mattina le parole che abbiamo sentito sono state pronunciate al nostro microfono da Bernie Ecclestone alla fine dell'incontro nel paddock, nello spazio paddock della Renault con Flavio Briatore. Inevitabile che si sia parlato del caso nel signor Piquet, che ha denunciato di fatto il fatto di essere stato costretto dalla Renault di questa dal volante fino a due Gran Premi fa a provocare un incidente a Singapore 2008 per favorire l'ingresso della safety car e quindi conseguentemente la vittoria di Alonso, allora in corsa per il mondiale. A questo punto molto probabilmente le indagini andranno avanti, la decisione di un'eventuale punizione, di un'eventuale sanzione nei confronti della Renault arriverà il 21 settembre nel Gran Consiglio Mondiale di Parigi, ormai sede abituale dove si decidono i destini del Mondiale di Formula 1 più che sui circuiti. E intanto però Ecclestone, abbiamo sentito, cerca di temporeggiare, ha detto deve decidere la FIA, dobbiamo verificare se quello che è stato denunciato è accaduto veramente. Briatore tanto e la Renault hanno denunciato a loro volta nel signo e Nelson Piquet, e il papà è pluricampione mondiale, per estorsione. Per tentata estorsione, al Tribunale di Parigi e anche a quello di Londra, la notizia del giorno è un po' questa, e ci sono anche le dichiarazioni di Mosley che dice la Renault è innocente fino a prova contraria, battaglia soltanto agli inizi. c'è il sospetto di una ritorsione effettivamente, almeno nella tempistica insomma di Nelsinho Piquet licenziato dopo Budapest, però è una vicenda non poco spinosa, immagino che se ne parlerà ancora molto in questo weekend di corsa. C'è anche Schumacher che ha annunciato che starà altri 3 anni con la Ferrari, ma seguirà soprattutto lo sviluppo delle vetture di serie. Dario, ti ringrazio, ci sentiamo comunque domani nel weekend ampiamente. Grazie a voi. A presto, grazie a Dario Ricci, nostro inviato a Monza. Adesso vi faccio sentire una scheda di Massimo Di Scienza. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita. Zero assoluto. Purtroppo però qui non si parla di musica pop, ma di sport. E questa cifra fotografa bene il momento che attraversano le nostre nazionali più amate. Quelle che dopo l'inno di Mameli, niente. 2009 annus horribilis, ma non è il primo e c'è il rischio che non sia l'ultimo. Partiamo dal calcio? Con ancora negli occhi gli stenti dell'europeo di Austria e Svizzera, ci siamo presentati alla Confederations Cup di giugno sulle ginocchia. Ci ha battuto l'Egitto ed umiliato il Brasile. Ma meno il trend degli azzurri di Lippi nelle ultime ore è tornato a salire. Cosa è rimasto invece di quella nazionale di pallavolo che negli anni 90 faceva tremare il mondo? Dopo la fiammata di Pechino in cui sfiorammo il podio è arrivato il disastro agli europei in Turchia. Il 10° posto nel vecchio continente è un risultato che deve far riflettere. Ma almeno i ragazzi di Anastasia, gli europei ci sono andati. I colleghi del basket, sotto la guida di Recalcati, i campionati continentali in Polonia li stanno seguendo via internet. La squadra che aveva fatto innamorare con l'argento olimpico di Atene ora è un cumulo di macerie fumanti. I nostri ascoltatori meno giovani ricorderanno che c'era una volta il sette bello. Nella pallanuoto mettevamo in fila tutti. Oggi, pur giocando in casa, non siamo andati oltre l'11° posto ai mondiali, perfino peggio del 9° di Pechino, che già sembrava un punto di non ritorno. Di contorno mettiamoci il rugby. La nazionale passata inutilmente dal francese Berbizier al sudafricano Mallet non vince una partita dal giugno del 2008 e al Sei Nazioni fa collezione di cucchiai di legno. Gli sport cosiddetti minori non sprizzano di salute. Settimi agli europei di baseball, mai così male. Settimi ai mondiali di hockey su pista, peggior risultato di sempre. Fuori dagli europei di pallamano e retrocessi in Serie C agli europei di hockey Prato. Possiamo consolarci con l'hockey su ghiaccio, dove siamo appena tornati nel gruppo A mondiale. C'era una volta una potenza dello sport globale. Qualcuno sa dire che fine abbia fatto? Questa qua. Questo era Massimo Di Scienza. Andrea Zorzi, che fine ha fatto la potenza dello sport, la superpotenza dello sport mondiale negli sport di squadra? Sembra essersi un po' persa per strada. Mi è venuto anche da pensare che c'è ancora una nazionale che tra poco andrà a fare gli europei in Polonia, quella femminile di pallavolo che teoricamente è una buonissima squadra. L'anno scorso ha fallito alle Olimpiadi con un quarto di finale assurdo, però è una squadra che sulla carta lotta per i primi posti e questa cosa, insomma, in un panorama così complicato forse da tenere presente. Poi per il resto, effettivamente, visto che per tanti anni l'Italia è riuscita, non si sa bene come, a ottenere grandi risultati negli sport di squadra, che ricordiamo sono quelli più complicati da costruire, perché non si tratta di trovare un talento, ma creare un ambiente, una squadra. E in quest'ultimo periodo le cose vanno decisamente male. È chimica, è magia, in un torneo breve è anche fortuna, però abbiamo troppi indizi. L'anno scorso, ti ricordi, eravamo qui a parlare di spedizione azzurra a Pechino, fallimentare per quanto riguarda gli sport di squadra. Lì avevamo tante medaglie con cui consolarci, però quest'anno abbiamo trovato le conferme, purtroppo molto amare, lungo tutto il percorso, dalla pallanuoto ai mondiali interni, alla pallavolo lo stiamo trovando ora, il basket sappiamo quello che è successo, insomma adesso sono conferme. Per evitare di farci prendere anche noi da questa voglia, insomma, di trovare soluzioni immediate, proviamo a fare un po' di chiarezza, nel senso che, come sempre avviene, è difficile da accettare, ci sono mille cause che concorrono a questi fallimenti, mille cause concorrono anche alla vittoria, anche se è più facile in quel caso concentrarsi su quelle positive. Non ci sono soluzioni immediate, nessuno ci aspetta un miracolo che nel giro di uno, di due mesi o di sei mesi trasformi le squadre perdenti in squadre vincenti, anche se ciò può accadere, ma in genere sembra un miracolo, in realtà è qualcosa che appoggia le proprie basi su una struttura positiva, su un ambiente positivo. Per un po' di tempo si lavora molto, con molta intensità, con molta convinzione, e i risultati non arrivano. Poi di colpo, in modo non lineare, c'è la grande sorpresa. Però non può essere considerato un miracolo quello, perché è qualcosa, un grande successo che si appoggia su una base. E adesso il mio vero grande problema, la grande paura, è che ho paura che questa base non ci sia. Quindi ci vorrebbe veramente un miracolo. Però adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, poi cominciamo a parlarne in maniera un po' più profonda. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i messaggi. Vi dico subito che c'è una scusa che io non, che è la più ricorrente e sulla quale vi inviterei a riflettere. È un luogo comune dire troppi stranieri, la colpa è loro, noi non combiniamo niente perché ci hanno invaso, ma io non penso sia così. Oltre ad Andrea Zorzi qui vicino a me, io saluto e ringrazio un presidente federale, quello del basket, Dino Meneghin. Ciao Dino, grazie. Ciao, buongiorno. Senti, buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato con Andrea a parlare ovviamente dell'argomento del momento, cioè il profondo rosso del bilancio azzurro in tutti gli sport. C'è chi scrive: la nazionale di atletica leggera, peso di quest'anno, non ha fatto mai. Ed è vero, ma mi era sottinteso nel discorso. C'è chi scrive: mancano professionisti seri, quali preparatori atletici, allenatori, eccetera. Infatti vanno avanti solamente i raccomandati. Questo lo scrive Max. Dino, le tue spiegazioni alla crisi dello sport di squadra italiano, non solo del basket? Ma io penso che sia anche una cosa ciclica, prima di tutto. Ci sono delle annate meravigliose, quelle che ha vissuto per esempio Andrea Zorzi insieme a Lucchetta e compagni, dove hanno spopolato a destra e a sinistra in tutto il mondo. Altre volte, poi piano piano, le cose cambiano, sono un po' come annate come il vino, sono delle annate buone, altre no. Ci sono dei cicli che si aprono incredibilmente o improvvisamente e forse altrettanto inspiegabilmente si chiudono, forse per aprirne altri. Non c'è una spiegazione logica. Questa secondo me poi nel rinnovare un po' il parco giocatori, perché poi sono sempre loro i principali attori che vanno in campo. Quindi la difficoltà sta prima di tutto nel trovare i ragazzi che sappiano lavorare, che sappiano faticare, sacrificarsi per ottenere un risultato. In fianco a questo ci vuole lavorare per anni per ottenere un qualche minimo risultato. A fianco a questo ci vogliono dei preparatori che siano pronti, bravi ad insegnare tecnicamente e umanamente a come si cresce un campione, uno sportivo che può diventare un campione. Poi forse alla fine ci va anche l'organizzazione, però alla base di tutto ci va un lavoro di massa per cercare di convincere i nostri giovani a fare lo sport. Dal grande numero poi saltano fuori quelli che vogliono effettivamente diventare dei campioni, certo. Perché per strada si perdono tantissimi ragazzi, perché per un motivo o per l'altro, studi, si stufano, si fanno male, hanno la ragazza, che ne so, non sono motivati abbastanza. Questi magari si perdono per strada, però quelli che hanno bene in testa l'obiettivo di diventare dei veri campioni, sono pronti a sacrificarsi, questi sono sempre di meno. Sì. Io noto che i nostri giovani vogliono tutto subito, se non riescono a ottenere risultati è sempre colpa di qualcuno, dell'allenatore che non li capisce o del dirigente che non gli fa fare il lavoro che vogliono. Quindi sono sempre troppe scuse accampate per sopperire un po' le loro mancanze, sì. A 360 gradi. Sono d'accordo, così come sono d'accordo sul fatto che sia alla fine ciclico, no? il discorso della crisi, perché mi vengono in mente superpotenze nel basket o anche nella pallavolo, nella pallanuoto, come la Russia, come la Serbia, che sta tornando ai vertici ora dopo anni di buio. Quindi da questo punto di vista, è quasi fisiologico. Non mancano, Dino, paradossalmente, buoni giocatori. Io noto, guardando le nazionali giocare, che mancano dei leader. E per questo mi viene in mente il discorso di stranieri. Adesso un luogo comune è quello: non abbiamo giocatori perché ci sono troppi stranieri. Io noto che abbiamo giocatori, non abbiamo giocatori di personalità. Ma può essere anche questo. Io infatti quello che ho sempre detto ai nostri giocatori, adesso poi che sono da poco presidente, ma che ho sempre ripetuto fino a perdere il fiato, è che i nostri giocatori troppo spesso sono dei portatori d'acqua in campo. Allora, ci sono i giocatori stranieri che arrivano, i nostri giocatori devono prima di tutto lavorare di più. E poi, secondo luogo, quando sono in campo, essere protagonisti. Quindi non essere dei passatori di palla, ma fare come fanno gli americani. Cioè, vogliono giocare uno contro uno e se lo giocano. Tirano quando sono liberi. Essere più presenti e più attivi. Essere veramente in campo col fuoco negli occhi. Altrimenti poi diventa anche molto facile. C'è una situazione da risolvere, diamo la palla all'americano, certo. Che fa lui. C'è un tiro libero, c'è un fallo da prendere, diamolo al lituano che è bravo a fare queste cose. E quindi i nostri giocatori, pur avendo magari le possibilità per essere dei veri protagonisti, diventano dei attori di secondo piano, delle comparse. E questo mi fa imbufalire, perché io vedo i nostri giocatori che hanno grosse potenzialità, che si accontentano del solito tran tran, del lavoretto, del non fare brutta figura, non tiro, non sbaglio, quindi non faccio brutta figura. Quindi io li vorrei vedere veramente in campo a rubare la palla dalle mani dell'americano. Sto esagerando naturalmente. No, ma è così. No, per far vedere al proprio allenatore che prima di tutto mi sto lavorando e mi sto allenando come un pazzo. E quindi merito, più rispetto e merito più tempo in campo. Andrea. Per allargare il concetto non solo a quello che si fa in campo con gli strani domeni, ricordiamo che noi abbiamo l'effetto strano che la globalizzazione sembra solo dall'esterno verso di noi. Bravissimo. Cioè, è vero che molti vengono in Italia, però perché pochi di noi, bravissimo, non solo nell'NBA, che è bellissimo andarci, o nei campionati ricchissimi, però quando lo strano si muove, varca l'oceano e va per guadagnare alcuni soldi, pochi a volte, rischiando di non sapere quello che succede in un mondo nuovo dove sei sotto pressione perché sei anche lo straniero, però pochi di noi lo fanno questo, perché in Italia si sta piuttosto bene. Però poi è anche vero che in qualche modo segliati vengono qui perché costano di meno e forse la cosa va presa in considerazione, perché è più facile prendere un giocatore già fatto invece che puntare sul giovane, e questo va preso in considerazione. Però anche noi potremmo teoricamente andare verso l'esterno, perché ti assicuro che negli ultimi anni, viaggiando a vedere la pallavolo di alto livello spesso senza l'Italia, mi sono reso conto che poi i protagonisti nei grandi tornei sono quelli che a volte in Italia sono considerati mezze figure, i quali invece per esperienza, per attenzione, per attitudine che hanno imparato all'estero, sono diventati dei grandi atleti. Questo è verissimo. Noi riceviamo tanti stranieri, ma non siamo stranieri, Dino. Perché non, i nostri non vanno a mangiare il pane duro all'estero? Beh, perché qui stanno bene, qui hanno un contratto vantaggioso, hanno la possibilità di giocare, non sono così invogliati a provare nuove esperienze e quindi preferiscono stare un po', fra virgolette, in un ventre di vacca che li coccola. Quindi diciamo che da questo punto di vista gli stranieri che vengono da noi hanno prima di tutto fame di soldi, fame per arrivare, fame per diventare protagonisti e quindi essere primi attori in campo, come ho detto prima, e i nostri forse molto spesso stanno un po' a guardare. Ma il discorso di base è che se tutti ragionassero così, allora, perché le nostre squadre cosa fanno? Come diceva prima giustamente Andrea, vanno a prendere i giocatori all'estero e quindi, fra virgolette, sfruttano i talenti cresciuti nei vivai dell'estero. Allora, se tutti facessero così, o se nessuno facesse più i vivai, o se nessuno crescesse più i giocatori, noi saremmo costretti in Italia, fra virgolette, a crescere i nostri giocatori come si facevano 20-30 certo. anni fa. E allora è troppo facile non investire nel settore giovanile, andare a prendere il lavoro già fatto da altri, club di nazioni straniere. Perché non cominciamo a costruirli? Qualche problema di linea con Dino, purtroppo. Discorso molto interessante, ma secondo me è una grande verità quella che ha detto poco fa Andrea Zorzi, e cioè... vengono da noi, ma noi non andiamo all'estero. Andando all'estero potremmo crescere. Cioè, il discorso si innesta anche su una sorta di protezionismo che io non condivido molto. Questa battaglia tra leghe e federazioni, che c'è nella pallacanestro così come c'è nella pallavolo, vengono protetti i giocatori italiani anche dal punto di vista contrattuale, quindi possono guadagnare di più, non è legge di mercato. Bada, in tutto questo non c'è un invito a puntare solo sugli stranieri, no. o a non no. pensare ai vivai, che sono veramente l'unica salvezza per il futuro dello sport, e che poi a un certo punto occorre fare il passaggio. Quando io ricordo, ne ho parlato un paio d'anni fa, giocò a Milano Garner, giocatore americano, che quando era giovane nel college era un fortissimo pallanotista, mm-hmm. e ha scelto la pallavolo. Perché l'hai scelta? Perché ci sono più possibilità di guadagnare dei soldi giocando a pallavolo che a pallanuoto. Ora, al di là della discussione, per amor di Dio, che va fatta, ma l'idea è che spesso gli americani, non parliamo di un popolo sottosviluppato, gli americani fin da subito immaginano come un professionismo anche il gioco, e quindi hanno il coraggio di muoversi, di andare in giro a imparare lingue nuove, gli americani non moltissimo però gli capita, mm-hmm. in situazioni completamente diverse, e alcune esperienze sono fallimentari. Certo. Gente che va a giocare in Turchia e in Russia, malissimo. E non prende un soldo magari perché... Però quell'esperienza lì ti rimane addosso. Vedi una pallavolo un po' più ampia di quelle che sei abituato a vedere, per esempio in Italia, e per gli altri sport, quindi anche questo esempio vale, e mi pare che sia un'esperienza che in ogni caso aggiungerà qualcosina alla solidità del singolo giocatore. Io vorrei chiudere con Dino Meneghin, che è tornato in linea con noi. Dino, le tue idee... è morto il telefonino. non c'è problema, speriamo che si riprenda. Senti... Cosa succede adesso nel Club Italia? Insomma, è una situazione molto particolare anche per lo sport italiano, perché l'ultimo risultato, fantastico, Atene 2004, ma sono passati 5 anni. Poi Europeo del 2007, tutto sommato decoroso, perché abbiamo lottato quantomeno. Mondiale 2008 siamo arrivati noni, quest'anno quello che è successo lo sappiamo, è una discesa che sembra non trovare soluzione. Poi c'è anche, volevo chiederti anche questo, il tuo collega da pallavolo Magri parla di... squalifica possibile per chi non accetta la maglia della nazionale. Su questi due punti cosa mi rispondi? Beh, allora, partendo dall'ultimo, diciamo che da una parte può essere veramente un giocatore che è costretto a venire in nazionale, ma se poi hai in nazionale gente che viene svogliata, controvoglia, che non lavora bene e compromette il lavoro di chi invece vuole lavorare bene, sì, allora è meglio avere gente motivata, gente che magari è meno talentuosa, che però abbia voglia di sbucciarsi le ginocchia, sì, piuttosto che avere gente viziata e costretta da solamente andare via. E la prima domanda qual era? La prima domanda è cosa succede adesso. Ah, cosa succede adesso? Una tragedia, perché per la prima volta l'Italia non si qualifica, non gioca agli europei, e questo deve essere un segnale d'allarme per tutti. Per me, per l'allenatore e per i giocatori soprattutto. E quindi ci sarà da fare un esame attento e preciso su quello che dovrà essere il lavoro futuro. E come costruire nuovi giocatori, come motivarli, ma soprattutto come raggiungere il più in fretta possibile i risultati che il nostro basket si merita. Perché nell'ultima partita, per esempio, quando abbiamo perso contro la Finlandia, quello che mi ha fatto più arrabbiare è che i nostri giocatori non hanno saputo dimostrare quanto sono bravi veramente. Abbiamo fatto una figura da peracottai senza esprimere il meglio del nostro basket, e questo non è accettabile. Quindi ci vuole un attento esame di coscienza da parte di tutti, a partire dai giocatori, in modo che capiscano che loro sono l'emblema del nostro basket. Se la nazionale vince ed è protagonista, tanti giovani si ispireranno a questi giocatori e lavoreranno ancora più intensamente. Se loro falliscono, anche gli altri non avranno molta voglia di imitarli, e questa sarebbe una tragedia ulteriore. Quindi il lavoro che c'è da fare è poche parole, orecchie basse, rimboccarsi le maniche tutti e lavorare per questo benedetto basket che possa ritrovare gli allori, permettimi questa parola, sì. Che possa essere un basket migliore di quello che abbiamo visto fino adesso. Ecco. Grazie Dino, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Andrea. Ciao Dino. Abbraccio ciao. Forte Dino Meneghin. Sto leggendo i messaggi per Andrea Zorzi. Diciamocelo chiaro, la nazionale monumentale degli anni 90 non è stata in grado di interessare un'intera generazione di giovani potenziali pallavolisti, perché in Italia interessa solo il calcio. Gabriele da Biella. Tutti gli imperi finiscono prima o poi, scrive un altro ascoltatore. Alessandro da Grosseto, buongiorno. Buongiorno a lei, gente. Dica. Io volevo soltanto dire questo. Sono molto d'accordo con lei sul discorso dei leader. Mi riferisco per esempio al 7 Bello nel 78, quando vincemmo il mondiale c'era un certo Gianni De Magistris, e lo stesso nel 92 quando vincemmo le Olimpiadi c'era lo stesso Sandro Campagna. Purtroppo c'è un grosso interessamento, secondo me, a livello giovanile di buoni atleti, perché infatti i nostri atleti a livello giovanile vincono tutto, poi purtroppo molti si interrompono, si fermano, perché questi atleti che hanno finito gli studi o li prende qualche società e indirizzandoli in finanza, nei carabinieri o in polizia, se no purtroppo i costi sono talmente elevati che questi ragazzi magari si devono spostare dalla provincia, andare in città importanti tipo Firenze e Roma, e le famiglie purtroppo non ce la fanno a gestire questa situazione. Se questi personaggi non, ed ecco che si ferma il settore giovanile. Non so se lei è d'accordo. Sì, in parte per alcuni sport la trafila è questa, atletica, canottaggio, eccetera. Per altri la filiera, diciamo così, è differente. Però è vero che spesso a livello giovanile abbiamo nazionali vincenti, anche nel calcio, Under 21 che vince gli europei a raffiche, poi un po' ci si arena. Sì, occorre però dividere un po' il mondo dello sport in due, nel senso che ci sono alcuni sport che possono economicamente reggere un pochettino, e quindi la scusa del fatto di non poter mantenere i ragazzi nell'attività è una scusa vera e propria. Altre discipline, pallanuoto, ne stavo parlando, è verissimo, ma non è l'unica, ce ne sono molte altre, debbono fare affidamento solo sull'aiuto delle forze armate, degli eserciti, della finanza, perché sennò non possono andare avanti, e a quel punto le famiglie e i ragazzi stessi non hanno alcuna opportunità di far diventare la loro passione un qualcosa di più. Però ovviamente questo riguarda, come tu dicevi, alcuni sport. Per altri invece diventa un aggravante, perché ci sarebbe anche la possibilità di proseguire e di crescere. Andrea, prima mi dicevi che la parola chiave è ambiente. Sì, ambiente, come in tantissime cose, l'ambiente positivo, l'ambiente che in qualche modo stimola reazioni positive, ed è per quello che è molto complicato virare in fretta, perché l'ambiente è composto di giocatori certamente, ma è fatto anche di dirigenti, è fatto di pubblico, è fatto di cultura, è fatto di scuola, è fatto di buone strategie. Quindi ovviamente arrivare, come diceva Meneghin, a obbligare la convocazione è ovviamente, evidentemente, l'ultima ratio, certo. E difficilmente darà buoni frutti. Però è la prova inequivocabile che qualcosa non funziona. Perché può accadere che qualcuno ha una ragione, se ha vinto molto, per un po' di tempo vuole. Però se tu consideri la nazionale come una specie di impegno e te ne vuoi scappare, e beh, questo insomma non c'è nulla da dire se non che l'ambiente non è positivo. Un altro problema che ci troviamo a dover affrontare ora è quello della necessità di fare qualcosa in un momento di difficoltà. Lì userei una metafora pericolosa, come quando le coppie sono un po' in crisi, tutto diventa dannatamente complicato perché siamo molto preoccupati di difendere noi stessi e di trovare il colpevole. È ovvio però che quando le cose vanno male, come stanno andando male adesso in molti sport, qualche decisione bisogna prenderla. Sarebbe però auspicabile che chi ha queste responsabilità in qualche modo non lo facesse sull'onda della rabbia, sull'onda della speranza di risolvere in fretta i problemi, ma lo facesse in qualche modo sia con la visione futura progettuale, ma anche con la necessità, con la responsabilità di vedere che qualcosa veramente cambia. Perché poi è inutile solo fare questi progetti a lunga scadenza se non abbiamo la forza e la capacità quotidianamente di vedere se la direzione è quella, in assenza di segnali positivi. Se io tutti i giorni potessi andare in palestra e vedere che sto percorrendo una strada perché vedo i miglioramenti, qual è il problema? Sono tranquillissimo, non è così. Lo sport, come tante cose, non è una crescita lineare e ordinata e organizzata. A volte si va a strappi. Bisogna quindi tenere la rotta, non perdersi di vista, non perdere coraggio e continuare senza però restare in un vicolo cieco. Ci sono dei distinguo da fare, io credo, tra la situazione del basket e quella della pallavolo, poi parleremo anche della pallanuoto. Nel basket la situazione che si è creata è per alcuni aspetti molto più grave, più complessa, perché come dicevo sono 5 anni che l'Italia va in costante peggioramento. Recalcati non se ne va perché è un vincente ed è un orgoglioso, però onestamente io credo che ci sia da interrogarsi seriamente sull'opportunità di proseguire il rapporto con la nazionale, anche perché mi sembra che il suo rapporto con il gruppo dei giocatori, che è quello che ha fallito l'ultimo obiettivo, sia per usare un pallido eufemismo, incrinato, e non abbiamo un altro gruppo, abbiamo questo con cui andare avanti, quindi non lo so, io credo che Ciro Regati secondo me è il CT perfetto per la nazionale italiana, però forse siamo davvero alla fine di un ciclo. Per la pallavolo invece la situazione è differente. La situazione è diversa perché Anastasia è arrivato da poco tempo, e poi non è trascurabile il fatto che la relazione, l'importanza del campionato di basket e di pallavolo sia proporzionalmente diversa. E cioè il basket, stando avanti, parlo del campionato di basket, benissimo, con maggior successo, con molti stranieri anche, però continua ad avere grande seguito, continua ad avere una certa stabilità. E questo ovviamente per alcuni aspetti va quasi a diventare un problema per la nazionale, perché gli atleti sanno di avere una casa dove stare abbastanza tranquilli. Nella pallavolo, in qualche modo, questa casa è abbastanza solida, ma non così solida come nel basket, ed ecco perché i rifiuti e le difficoltà nella nazionale di basket sono superiori a quelli della pallavolo. Molto banalmente è una questione anche solo economica. E far ritornare la nazionale, il primo obiettivo, non è facile. Non si può puntare sempre solo sul concetto, quello molto radicale, di fame, di voglia di arrivare, perché in Italia non siamo un paese in cui si lotta per sopravvivere, per non finire in mezzo alla strada. Occorre trovare un modo diverso, un po' più evoluto, un po' più da paese di benessere, per essere dei grandi atleti, super motivati. E quindi anche questo è un aspetto sul quale puntare moltissimo, questo di cultura. Tutti aspetti che possono anche crescere in fretta, che devono coinvolgere la più grande numero di atleti, di dirigenti, e aspetti sui quali andare avanti, quei quali però non possiamo aspettarci, come si diceva, il miracolo che da dopodomani arrivi l'allenatore che guarda caso cambia la situazione e si comincia a vincere. Certo, un'altra favola è quella dello sport nella scuola, ma poi ne parliamo. Salvatore da Milano, buongiorno. Io volevo proprio parlare di questo aspetto della favola, ha proprio intuito, sì. Secondo me se si vuole essere ai livelli degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia, della Germania nella pallavolo, nel basket, nell'atletica, costantemente, quindi senza aspettare le annate positive, bisogna collegare lo sport alla scuola. E noi da ragazzi si è passato tante ore sui banchi di scuola, ma le ore di sport erano solo un'ora e mezza, due alla settimana, fatte da insegnanti non adeguati. Sono d'accordissimo, Salvatore. Io, quando lei ha citato Gran Bretagna e Stati Uniti, volevo subito frarla, poi ovviamente giusto che articolo il suo pensiero, però qui servirebbe una rivoluzione culturale, perché la rivoluzione più grande sarebbe quella di portare davvero lo sport nelle scuole. Non abbiamo cultura dello sport a scuola, non abbiamo le strutture, non abbiamo praticamente nulla, quindi la vedo complicata. Si può avviare un progetto, però insomma mi sembra che dal punto di vista culturale Stati Uniti e Gran Bretagna soprattutto vivono in un altro mondo. Un passaggio dalle 2 ore settimanali alle 6 ore di attività sportiva, visto che stanno 40 ore sui banchi di scuola alla settimana i ragazzi e non hanno tempo per andare nelle varie società di calcio, di pallavolo, di pallacanestro o quant'altro, e secondo me bisogna chiedere alla scuola di insegnare gli sport di squadra e gli sport come l'atletica a scuola, come fanno gli Stati Uniti e altre nazioni che non hanno mai crisi che coinvolgono tutte contemporaneamente le varie federazioni. Sì. Questa è una crisi ciclica in una. Io stavo pensando, nel sentirla parlare, stavo pensando ad alcune palestre scolastiche che vedo in giro, Andrea. Ma se io fossi, per esempio, convinto paradossalmente che il problema è solo quello delle strutture, sarei quasi sollevato. Sì, no, ma non è solo quello. Nel senso che quando non ci sono, non ci sono proprio e non si può fare nulla. In altri casi ci sono e non vengono sfruttate. In altri casi sono fatte male e non va bene. In altri casi gli insegnanti di educazione fisica si sentono più o meno giustamente sottovalutati e non si hanno voglia di fare nulla. Gli altri insegnanti considerano l'educazione fisica il tempo perso da occupare per studiare. Quindi sono veramente una serie di situazioni drammatiche. Ho però anche qui l'impressione che, come dire, sia un argomento così ampio e così diverso da non poterlo trattare insieme con la scelta che deve fare Meneghin, per esempio, adesso, se rinnovare il contratto o meno aree calcate, perché sono aspetti così distanti, tra l'altro che hanno tempistiche così diverse e che dipendono da istituzioni diverse. Ovviamente questa è la favola, ci piacerebbe molto, ci piacerebbe che la scuola e il luogo adatto potesse offrire un'idea di polisportiva, l'idea di fare un ragazzino non solo tirare calcio a un pallone, non solo fare qualche colpo di basket, di pallavolo, ma conoscere un po' quali sono per esempio le sue abilità, qual è lo sport, la disciplina nella quale se la cava meglio, anche perché non dimentichiamo che un ragazzino si appassiona allo sport se ha delle buone qualità, se gli viene bene. Certo. Se tu provi uno sport e non va bene, smetti ed è finita. Se ne provi 10 di sport, in uno di questi magari vai anche un po' bene, il che significa che puoi avere l'opportunità di mantenere con quel tipo di attività una buona relazione che può essere anche semplicemente dilettantistica. E invece noi, se non sei... vedi che è un problema strutturale, è un problema di rivoluzione culturale, perché non esiste un programma sportivo nelle scuole italiane. Tra l'altro poi adesso ultimamente esistono solo questi camp scuola, che sono spesso operazioni di business vero e proprio, che portano i ragazzini a fare dei camp, ma è di buon livello, ma sono sempre camp relativi a una unica disciplina. Certo. E in quanto tale si perde quello che è il grande valore di provare a fare sport diversi, provare a fare tiro con l'arco, provare ad andare a nuotare, provare a fare varie cose. Non è possibile, anche se si provi, non c'è un luogo in nessuna città, anche Milano, che è la più grande città e credo anche piuttosto dotata in strutture sportive, ma c'è un luogo nel quale mio figlio può fare varie discipline? No. Lo devo iscrivere a una squadra che fa calcio, pallavolo, certo, basket, baseball, quello che vuole, ma non un luogo nel quale può provare a fare queste cose per vedere in cosa è bravo. Marco da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiamavo per meravigliarmi della cattiva cultura sportiva che abbiamo in Italia. Io penso che se la nostra nazionale di calcio arriva ottava ai prossimi mondiali, siamo tutti delusi, tutti a piangere, tutti a lamentarsi, anziché gioire di una nazionale che, non so, quanti paesi ci sono al mondo? 200? Sì. Noi siamo arrivati ottavi su 200, è un grandissimo risultato. Io la vedo così. Mi sembra una visione un po' buonista però. Certamente, ma come si può dire... Io vedo che spesso ci lamentiamo, non so, alle gare di sci, il nostro atleta arriva a 20esimo. Cioè vuol dire che su 6 miliardi di persone ce ne sono solo 19 più brave di lui. Sì, mi sembra una cosa fantastica, però magari è un modo positivo di vederla. Se questa visione fosse mixata anche con quelle che è un po' più di sano gusto della competitività, faremmo un buon compromesso, perché esagerare nel pensare che solo chi arriva primo ha qualche merito mi sembra veramente esagerato. Allo stesso modo non possiamo davvero dividere in modo aritmetico il numero di partecipanti per il numero di nazioni, perché le condizioni sono diverse e le tradizioni anche. È ovvio però che nel momento in cui ti rendi conto che qualunque risultato tu ottenga è sotto le tue aspettative, forse va rimesso un pochettino di ordine anche nei propri desideri. Però un ottavo posto per un campionato di calcio, secondo me ci lamenteremmo più o meno giustamente. Allora, saluto e ringrazio un CT d'oro, medaglia d'oro ad Atene con le ragazze del Sette Rosa, per Luigi Formiconi. Buongiorno, ciao. Buongiorno a voi. Allora, anche la pallanuoto sul banco degli imputati dopo un mondiale di Roma che definire deludente mi sembra pochino, mi sembra riduttivo. Qui quali sono le ragioni? Ma finalmente qualcuno lo dice, perché era tutto fatto bene, tutto a posto, squadra nuova. Non mi pare. Che poi non era vero, perché era la squadra più vecchia che c'era del ranking. Quindi io parlo del femminile, perché sì, il maschile sì. Io ho allenato per tanti anni, ho fatto anche il commissario tecnico della nazionale maschile, sbagliando in quell'anno di cambiare tutto, perché sono andato appresso all'amore, nel senso che chi non vorrebbe allenare una nazionale maschile, gli allenatori tutti, no, credo. Quindi sì. Quando mi è stata offerta questa possibilità ho rifiutato anche la grande Florecco, che poi ha vinto tutti in questi anni, quindi ho sbagliato sicuramente, e sono andato appresso a un grande amore che dove tutti gli allenatori che partono vorrebbero arrivare, no? Però detto questo, posso parlare più del femminile che non del maschile, sicuramente. Sì. Dov'è l'errore allora? L'errore che bisogna saper vincere. Nel senso che la mentalità deve essere quella. Noi per 10 anni abbiamo vinto tutto, forse le persone non si ricordano, dal 94 al 2004 abbiamo fatto solo 2 secondi posti, ossia quando abbiamo perso le mie arrivavano seconde e piangevano. E poi abbiamo vinto mondiali, europei, 4, 2 mondiali, le olimpiadi, quindi c'era sicuramente una mentalità vincente, questa sicuramente. Erano gli altri che devono avere problemi con noi, non noi con loro. Adesso mi sembra che c'è, sento sempre, ma domani è difficile, domani qua, domani là. La mia frase famosa prima delle partite, al di là del lavoro che uno faceva quando finiva la riunione prima delle partite, che poi prima delle partite normalmente anche ti sentono, perché sono talmente presa a quello che devono fare che l'allenatore lo sentono ben poco, gli dicevo: ma oggi verranno? Ma vediamo. Era questa un po' la mentalità. Poi logicamente c'è un lavoro dietro, un lavoro specie molto tattico che non si fa più, purtroppo. Noi abbiamo perso la storia del nostro sport, almeno a livello femminile, negli ultimi 10 anni. Andrea. Ma copiare quelle che sono alte 1,85, pesano 80 kg e che noi abbiamo, io parlo di Di Mario, di Bosurgi, che sono alte 1,62 e pesano 57 kg, ecco, o 60 kg. Quindi è difficile fare forza contro forza con gente che alza 120 kg di bilanciere. Certo, bisogna trovare altre strade, Andrea. Bravo, trovo però molto. Noi siamo stati sempre latini, abbiamo sempre detto, io ho detto abbiamo perso la storia del nostro sport, per cui non sappiamo più giocare come giocavamo prima. Prima tutte quante, io mi ricordo, dalle americane alle australiane, alle russe, ci venivano di nascosto a vedere cosa facevamo. Sì, perché era una via alternativa che ma non era quella del confronto fisico. Il concetto nostro era quello di far fare agli altri quello che volevamo noi, certo. Quando gli altri avevano il pallone in mano. Scuola italiana. Guarda, io trovo interessante che Pierluigi Formiconi, che saluto naturalmente, abbia però parlato di mentalità vincente come la cosa che più si ricorda, la più importante di quel periodo. La credibilità del tecnico. Io ho sentito Peducci, ho detto bisogna tutelare i tecnici bravi. Quali sono? Sì, io mi riferivo anche a un altro aspetto, che se noi potessimo adesso negli sport di squadra parlare solo di mentalità vincente saremmo a buon punto. Ci manca tutta una parte per arrivare ad essere lì, perché occorre avere delle qualità tecniche, qualità tattiche, disponibilità, voglia di sacrificio per poter arrivare poi a fare sì che vinci o perdi grazie anche alla mentalità vincente. Invece stiamo parlando di qualcosa che in qualche modo riguarda un team già molto evoluto, e in molti casi non è così, perché la tattica, per esempio nella pallavolo, è estremamente utile, però se sei a un certo livello. Se parli di tattiche ai ragazzini è tempo totalmente sprecato, è importante che lo imparino una tecnica. Quindi io credo che in molte team di alto livello adesso la situazione sia quella di ripartire un pochettino anche dalle cose più semplici, per arrivare poi dopo a quella straordinaria caratteristica della mentalità vincente che ti fa partire, in cui se arrivi secondo piangono come hanno fatto le ragazze per un sacco di anni, e ti assicuro che per chi è stato lì in alto è veramente straordinario pensare che uno possa considerare una medaglia d'argento come una grande sconfitta. Sentiamo anche Valerio da Bologna, poi risponde Pierluigi Formiconi. Valerio, buongiorno. Buongiorno dottore, no, volevo portare l'esempio di mia figlia che gioca a pallanuoto nella Modena Nuoto, è una squadra di serie B, ha 17 anni, già da 3 anni, e prima parlavate dei ragazzi che non hanno voglia di sacrificarsi, in realtà ci sono altre grosse difficoltà, perché ad esempio mia figlia è già titolare già da tempo, però ad esempio c'è da pagare le quote annuali, i costumi, le divise se le pagano le ragazze. Il vivaio, vabbè, è quello che è, perché ad esempio nel Modena Nuoto quasi tutte le ragazze vengono dalla provincia, una città come Modena non riesce a esprimere. No, certo, ci sono anche delle difficoltà oggettive di questo tipo. Pierluigi Formicone, si parla, abbiamo messo tante componenti: la fame, la tattica, le vie alternative, la mentalità vincente. Però mi sembra che gli stranieri che hanno invaso i nostri confini, non mi sembra ci sia una risposta univoca, una sola risposta per... No, per gli stranieri io sono contrario a tantissimi stranieri, io andrebbero scelti, tra virgolette, perché io ho vinto uno scudetto con la Roma nel 2000 con gli uomini, cioè avevo grandi giocatori tipo Benedek e Vujasinovic, che forse nessuno conosce, ma che a livello mondiale sono un po', possiamo riparare un po' a Pelé, no? Quindi è importante, loro possono insegnare. Poi ci sono accettanti, come dicono in Liguria, io sono stato 6 anni a Genova, di rumenta in giro, che preclude spazi sicuramente a giovani di grandi qualità, che poi, ma in fondo, prendendo lo straniero, faccio giocare lo straniero, il ragazzino lo lascio in panchina e poi non ha difficoltà a esordire. Certo. Questa è una... Mi sembra però che è il cane che si morde la coda. No, ma è così, è il cane che si morde la coda, perché è la spiegazione di comodo. Io non credo che sia la ragione unica e nemmeno forse quella principale. Io la ringrazio, buon lavoro, grazie per Luigi. Grazie, buongiorno a voi, arrivederci. Grazie davvero. Chiudiamo con Andrea Zoldi, insomma una soluzione l'abbiamo trovata alla fine. Ma no, perché non c'è. No, una certamente non c'è. Occorre avere grande fiducia, grandissima fiducia, voglia di provarci fino in fondo. E come si diceva all'inizio, è un momento complicato, perché adesso è troppo facile cercare un colpevole e sperare in una soluzione immediata. Quindi facciamo bene a parlarne, discutiamo, allarghiamo il discorso arrivando fino alla scuola, poi decidiamo se vale la pena rinnovare o no il contratto a un commissario tecnico, quindi passiamo veramente dall'A alla Z. Però in ogni caso occorre essere responsabili se possibile, quindi non nascondersi dietro agli alibi dei progetti a lunga scadenza, non dimenticare che quotidianamente occorre avere il coraggio di dire con attenzione qual è la propria verità. Certo. E questo è l'equilibrio da tenere per cercare di andare avanti. Grazie Andrea, ti aspetto presto. Grazie ad Andrea Zosi, Flavio Solari in redazione, Carmelo Lauriceri in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio dalle 17 alle 18.